America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Thinking big isn't new to us. It's at the very foundation of who we are and who we've always been. It is essential to our character as New Yorkers. Bill de Blasio, italo-americano, ha un vantaggio, secondo alcune stime, del 44%. Oggi elezioni per il sindaco di New York, elezioni importantissime, fondamentali, perché si chiude l'epoca Bloomberg, si chiude un periodo di 20 anni in cui la città è stata, diciamo, sotto un'influenza più repubblicana che democratica, prima con Giuliani, 8 anni, e poi con il sindaco Bloomberg, altri 12 anni. Bloomberg è un centrista, ma un centrista molto indipendente, ha dei valori, diciamo, conservatori dal punto di vista economico e progressista da quello sociale, ha imposto per esempio il divieto del fumo persino in pubblico, quindi su molte cose di tipo sociale e progressista. Ma la città è un po' preoccupata, perché si dice che De Blasio sia troppo di sinistra. Anche se le elezioni ci sono oggi, posso dirvi con certezza che domani vincerà il signor De Blasio, tra l'altro un italo americano. Questo spunto di queste elezioni per il sindaco, di cui parleremo anche nei prossimi giorni a risultati avvenuti, mi dà un po' il destro per riflettere su quello che è il ruolo del sindaco in una città, sulle potenzialità di una città, dell'autonomia della municipalità, in quello che è l'impatto sulla crescita, sul progresso e così via, così via. E dunque che tipo di insegnamenti potremmo trarne anche noi. Per farlo ho con me ai microfoni di America 24 Piero Fassino, sindaco di Torino e presidente dell'ANCI, che è l'associazione dei comuni italiani, quindi un po' di tutti i sindaci. Buongiorno Fassino. Buongiorno. Oggi c'è un italo-americano che corre, e se vince questo italo-americano ci saranno due italo-americani in posizioni straordinarie, perché il governatore è Andrew Cuomo, italo-americano, il sindaco Bill de Blasio, italo-americano. Credo non sia mai successo nella storia americana che ci fossero contemporaneamente un governatore e il sindaco della più importante città, una delle più importanti città italo-americane. Allora, ma lei da che parte è? Che oggi de Blasio diventi sindaco di New York, è un fatto che credo debba riempire di orgoglio il nostro paese, e sarà anche l'occasione per rafforzare ulteriormente i rapporti tra Italia e Stati Uniti. Veniamo agli aspetti pratici. Io ho raccontato di quello che ha fatto Bloomberg in questa città, e in particolare su un settore che mi ha molto colpito, perché credo sia importante per una città come Torino, quello dell'high tech, dell'economia digitale. Ecco, il sindaco ha creato il Made in New York, cioè ha creato dei programmi che agevolano per esempio degli affitti per dare dei locali a delle nuove start-up oppure a quelle aziende che lavorano nell'high tech, nel momento in cui tutto quello che fanno lo tengono legato alla città. Ecco, le lancio una sfida, ma Made in Turin, Made in Torino, non è un modello che possiamo importare anche in Italia? Non potrebbe essere la sua città la prima a lanciare questo? Sì, è un modello molto interessante e lo stiamo studiando. Naturalmente Torino è un background molto favorevole a questo, perché Torino è una città nella quale si sono inventate mille cose. E a Torino, insieme al distretto dell'auto, gli altri due grandi distretti industriali sono l'high tech e il polo aerospaziale. Ecco, in che termini? Può dare delle deduzioni fiscali? Ci sono dei limiti a quello che un sindaco di New York può fare, a quello che lei o i suoi colleghi sindaci possono fare? Il sindaco di New York, come ogni sindaco americano, ha molto più potere e molta più disponibilità di risorse finanziarie e di autonomia di un sindaco italiano. E allora arriviamo al punto. Io mi auguro che vada avanti in Italia finalmente una riforma che riconosca ai comuni quell'autonomia gestionale che è necessaria per favorire lo sviluppo delle proprie comunità. Ma mi sembra che ci sono stati dei passi indietro però su alcune cose. Veniamo da anni nei quali c'è stata una ricentralizzazione sullo Stato di competenze prerogative che invece sarebbero più efficacemente gestite dai comuni e dal sistema dei poteri locali. Io credo che guardare all'America significa anche questo: riscoprire il valore del decentramento, della decentralizzazione e dell'autonomia, perché un problema si governa meglio se chi lo deve governare è più vicino ai destinatari della decisione. E allora, in termini pratici, lei che rappresenta tutti i sindaci d'Italia, come può portare avanti un'azione di questo genere per decentralizzare e ottenere un risultato, perché poi è quello che conta? Abbiamo svolto 2 settimane fa la nostra assemblea annuale con la presenza del presidente Napolitano e del presidente Letta, in cui abbiamo posto questa questione. Chiediamo che si torni a restituire autonomia gestionale ai comuni, che vuol dire maggiore autonomia finanziaria, maggiore autonomia operativa, riconoscimento che noi sindaci siamo in grado di governare i problemi molto meglio di quanto non possa fare una struttura statale centralizzata. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato dell'elezione del sindaco di New York, ci saranno altre elezioni, per esempio nel New Jersey si dovrà eleggere il governatore e vincerà di sicuro Chris Christie, quindi di questo parleremo domani, ma restiamo intanto focalizzati su New York e dunque alla città dedichiamo la canzone Billy Joel, New York, State of Mind. I don't wanna waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day. Out of touch with the rhythm and blues. Da New York è tutto, Simone, ti ripasso la linea. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.